c'è quello a fare, mai dato tu, e io con quello posso provare, capito? Posso fare le prove che voglio, capito? Guarda, se ne busco un altro così vecchio così, a me, io, guarda, lo prendo al volo. Lo prendo al volo, me l'hanno chiesto anche chi fa lavori di cosa, tu lo sai, che ripara lineari, cose del genere, me l'ha chiesto per farsi un alimentatore per provare i lineari, quelli che fanno quei lavori lì, me l'hanno chiesto uno. Io questo non lo do, perché me lo tengo e bello stretto pure. Ebbene, bello stretto. Me lo dovrebbero dare un altro di quelli, capito, a riparare, però non so se il padrone di fare di riparare oppure no. Se non c'è di buttarcelo, c'è di buttarcelo, che non vale la pena riparare, che non ripara, allora gli ti faccio sapere. Tanto più che altro quello c'è che sono i finali bu, quelli a 24, quindi l'alimentatore è tutto a posto. Ho preso anche il vacuum e tutte cose del genere. No, e tanto sai cos'è, Pompo? Che non vale, non conviene cambiare i finali sugli originali, non conviene, perché ti costa più di comprare un nuovo, hai capito? Ecco perché non ti conviene, perché io ho un finale buono, quelli buoni che dico io che ci vanno lì sotto, quelli proprio, quello col bollino rosso, col bollino che c'hanno il puntino rosso, quelli sono della, come si chiama? Sono i migliori, insomma, colore via dicendo ci sono, e sono i migliori che ci sono, come, e costano 76 e 78 euro l'uno, quelli lì, hai capito? E lì ce ne vanno 4, se ti fai un giro di conto non conviene più comprare e cambiare il finale, hai capito? Sette per 28, più aggiungi adesso 300 euro, ne costa 200, mi pare nuovo quello. Conviene direttamente allora comprare un nuovo e si è fatta finita. C'è anche un problema, quando monti gli MR7 455 adesso, tra il rosso, il giallo e il marroncino, non puoi accoppiare assieme, quindi o li fai tutti di un colore oppure non si prendono per niente i finali. Me l'ha detto un amico che ha provato con l'esperienza sua, e quindi o li piatti tutti di un verso o se no niente. Il discorso è quello di tutti i finali di ZG. Fermo un attimino, allora qualsiasi finale, di tutti i finali così, allora se c'è un finale partito, due finali partiti, il lineare ne ha quattro, tu gli devi cambiare tutte e quattro, anche quelle buone che cambiano, quelle due buone che sono accoppiate, le puoi adoperare su un altro lineare che ha due finali, quelli due accoppiati, le puoi accoppiare su un altro che ne ha due solo, o se non viceversa, perché come ho fatto io, da un 1200 ce n'erano quattro erano buoni, allora abbiamo eliminato i due che erano, cosa abbiamo preso? I quattro, accoppiati come erano accoppiati quei quattro lì, e li abbiamo messi sotto un 750, è andato troppo alla grande, bene, però se tu ne prendi due nuovi, due sono buoni, che ce l'hai lì, nuovi, nel lineare, che sono buoni, che funzionano bene, ne metti due nuovi, non va bene, ti partono, ma poi ti partono tutte e quattro, non va bene, bisogna cambiarli tutte e quattro, quei due li puoi tenere per uno che ne ha due solo, per un 501, le puoi tenere così, le puoi accoppiare come ho fatto io, come ho fatto in quello che mi aveva dato Claudio, ve lo accoppiati. Solo così puoi fare, capito? Quando si ripete tutti quanti, quella è logica la cosa, però quando li rimetti nuovi, o si rimettono tutti lo stesso colore, con colore uguale, o rosso, o giallo, se no metà rossi, metà giallo, non va bene. No, ti si brucia subito, hai capito? Quindi vogliono tutti di un colore, vogliono. Come e basta. O giallo, rossi, quello che è, di fatto che sia 422. Però o tutti in un verso oppure tutti dall'altro, per come colore. Così deve essere. Ma così, dai, io devo provare quella roba a Costanzo e scendo giù a portarlo su, dai. E vediamo vedere se ce la faccio a collegargli con questi fili qua, glielo provo qua al volo. Facciamo la prova veloce, la prova del lotto. La prova del lotto fai, non c'è problema, adesso sono qua. non so se c'è qualcun altro, c'è rimasto qualcun altro avanti. Allora, di nuovo. Tutto a posto. Sono io tu il segnale. Tra di voi quattro, Tu qua dormi un po'. No, aspetta, aspettavo c'era il distaccato l'amplificatore, ecco perché. Come penso di quando io con i finali, ma con i finali, con il fatto dell'apparecchio solo, dove c'è tutto attaccato, 50 watt solo dell'apparecchio. E invece con tutto c'è tutto che arrivano per qualche cosa. E a voi che va bene, a voi, già ci sentiamo qua. Aspetta un attimo che mi attacco Gilberto, scendo di watt, aspetta. Un attimo che attacco il diffusione dentro adesso. Non ho capito. Yeah, andiamo bene, aspetta 5 minuti che lo aggancio. Allora. 4-5. Va bene. Adesso facciamo scaldare il biglietto. Così vediamo se sale di... Ancora è freddo. Cuppio per cuppio, mi sembra che non mi voglia faccia la cosa, perché stava chiamando. Come si chiama? Ubuduzo. Viene il nome adesso. Vulcano, Vulcano, Vulcano, Vulcano, Vulcano.